fede più pura. Partiti per una promessa giurata sulla nostra terra. Sconfitte le schiere del male, la gloria ci sorriderà. Schiere del male, la gloria ci sorriderà.